legge, sente giornali radio, telegiornali, vede anche cose leggere, non ha importanza, tutto fa mondo, insomma, tutto fa vita. E il numero verde lo ricordo dall'inizio, 800 24 00 24, per raccontarmi qual è secondo voi la notizia della settimana, quella che vi ha colpito di più, le vostre riflessioni. Tra poco vi presenterò anche l'ospite che è qui in studio, ci saranno le solite interferenze da Marte, quelle inevitabili, e poi parleremo anche con Valeria Della Valle di quello che è il concetto, la parola che secondo lei è attribuibile a questa settimana, con tutte le tantissime cose che sono successe. 800 24 0024. C'è intanto il mio ospite che scarabocchia sul foglio così in modo frenetico, Alessandro Zaccuri, che stavi provando la penna. Funziona, mi sembra. Sì, provavo la penna, scrivevo il mio nome così mi ricordavo. Buongiorno, grazie dell'invito. Alessandro Zaccuri, che è giornalista del quotidiano Avvenire, conduttore della rete televisiva Sat 2000, e appena pubblicato, hai pubblicato vari libri, l'ultimo è Infinita Notte, che guarda caso ha un po' come sfondo il Festival di Sanremo, o sbaglio? Ha un po' tanto come sfondo il Festival di Sanremo, però è un romanzo, non è un saggio su Sanremo come tanti ne sono stati scritti, è un intreccio di storie. Perché hai scelto proprio Sanremo come... Perché io ci sono capitato come giornalista, come inviato qualche anno fa, nel 2005 tra l'altro, Bonolis primo, questo è il Bonolis secondo, chissà se il futuro ci darà un Bonolis terzo. Mi sa dalle intenzioni di Del Noce pare di sì. Ma parrebbe di sì. E comunque sono capitato in questo mondo non come giornalista di musica e spettacoli, ma come giornalista così incaricato di seguire il costume, il colore del festival, e ho trovato un mondo proprio, e quel mondo mi sembrava che al di là di quello che riuscivamo a tenere noi dentro le cronache più o meno dettagliate, più o meno stravaganti del festival, nascondesse tra le pieghe delle storie possibili che si potevano così, si poteva tentare di raccontare. E ho trovato il materiale, c'è stato. Secondo me ce n'è sempre moltissimo. Sempre tanto. Io ho fissato alcune storie tipo, che non sono storie vere ma sono storie verosimili, e devo dire che quest'anno sto addirittura riconoscendo qualcosa di quello che mi ero immaginato. Sei stato preveggente. Comunque naturalmente anche su Sanremo ci possiamo soffermare, visto che questa settimana è stata riempita, almeno le serate di italiani che hanno seguito il festival, da questo evento poi con Bonolis, le polemiche che l'hanno preceduto già di uno o due mesi, se non tre mesi, a partire dalla canzone di Polo. Ma anche no? Di 4, di 5, vero? Di 6, cioè il festival comunque chi lo fa, chi non lo fa, non fa. E poi se i compensi, fa. Se si fa, certo, la formula certo. Cambia, non cambia, certo. E poi dicevamo appunto questa cosa di Povia, del cantante Povia, che con questa canzone Luca era gay, quindi ritenuta discriminante almeno dall'associazione gay, da alcune associazioni anche di diritti umani, e poi Benigni che è intervenuto, però ha compensato un po' questo testo, secondo me se ne poteva di questo testo anche fare tranquillamente a meno, però insomma si dice che siamo in democrazia, no Alessandro? Beh, anche delle polemiche si poteva anche fare delle polemiche, a meno, quindi. Però forse Sanremo non sarebbe Sanremo. Io direi vi elenco velocissimamente alcune delle cose di cui si potrebbe parlare, ma ritengo sempre che le ascoltatrici e gli ascoltatori abbiano massima libertà, voglio che abbiate massima libertà sulle cose sulle quali volete intervenire. Intanto Alessandro, io vorrei fare un saluto affettuosissimo a una persona di una straordinaria umanità che comincia a essere merce rara ormai, e che è anche un dolce amico, che è Candido Cannavò. Come no, certo. Che è direttore, è stato direttore storico per quasi 20 anni, 19 anni della Gazzetta dello Sport, e ci continua a lavorare alacremente. È stato ricoverato in questi giorni in condizioni piuttosto serie, e veramente speriamo, gli diamo un grandissimo saluto affettuoso. Certo. Poi comunque, insomma, tra gli argomenti, le elezioni in Sardegna e le dimissioni di Veltroni, tutto questo terremoto nel PD, oggi c'è l'Assemblea Costituente, si vedrà un po' insomma che cosa succede. Poi l'approvazione del decreto legge con le misure contro le violenze sessuali, l'omicidio della giornalista russa Politkovskaya che rimane impunito, avete sentito il processo, tutti assolti. In Israele Presidente Peres, che ha dato l'incarico a Netanyahu di formare il nuovo governo, si vedrà anche lì se sarà un governo tutto di destra, misto, eccetera, eccetera. Il presidente Barack Obama che ha firmato il pacchetto di stimolo per l'economia americana da 787 miliardi di dollari, investendo moltissimo sulla scuola, tra l'altro. Quindi lungimirante ci sembra Obama su varie cose, anche lì sarà tutto da verificare. Le suore liberate in Kenya, le suore italiane, il testamento biologico, è stato approvato il disegno di legge Calabrò come testo base, con anche qui le discussioni, le polemiche che ci sono intorno a questo argomento così delicato, soprattutto dopo il caso Englaro. E un argomento che un pochino si lega, diciamo, per struttura etica, ecco, per ambito etico, la donna che ha chiesto di avere un figlio dal marito in coma, con il ginecologo Antinori che ha fatto questo prelievo di sperma dal marito che è malato terminale, sembra che insomma sia irreversibile questa cosa. L'avvocato Mills, avvocato inglese condannato a 4 anni e 6 mesi, la scomparsa di Oreste Lionello, grande attore, Sanremo, come dicevamo, e mille altre cose. Però prima di tutto vediamo se ci sono le interferenze dal nostro pianeta. Riflessioni da Marte. Certo che questa crisi globale avrebbe voglia di dimenticarla, no? Se potessimo, potendo disporre di una bacchetta magica. Ma l'ormai ex ministro delle finanze giapponese Nakagawa ha pensato di unire l'utile al dilettevole e al G7 di codesta settimana a Roma si è scolato una quantità imprecisata di buon vino italiano, tanto che alla conferenza stampa, mentre ondeggiava un po' di qua, un po' di là, con aria etilica, si è dimenticato persino i dati macroscopici della crisi economica giapponese. Dopo l'eccentrica performance è stato prontamente sostituito da un nuovo ministro delle finanze, il cui cognome dovrebbe essere però una garanzia. Si chiama Yosano, Kaoru Yosano. Insomma, ce lo auguriamo. Chi invece non abbassa mai la guardia e mostra, anzi, grande lungimiranza, è la mafia. Al passo coi tempi ha fatto anch'ella la sua svolta ecologica e in Sicilia ha messo le mani sul business dell'energia eolica, a quanto pare insomma, è molto sensibile a temi ambientali. Infine, più che dire che la mamma degli imbecilli è sempre incinta, sarebbe opportuno dire che il padre degli imbecilli è molto prolifico, perché per quanti figli possa partorire una donna in vita sua, un uomo ne può seminare a decine, insomma, in giro per il mondo. Evidentemente ha colpito anche nell'azienda di abbigliamento Relish, i cui fashion manager si dice, hanno avuto un'idea davvero straordinaria. In un mondo sempre più violento, dove non ci manca mai il nostro stupro quotidiano, anzi i nostri stupri quotidiani purtroppo, come ti pubblicizzano il prodotto, la Relish, i vestiti, insomma, come te la pubblicizzano? Con mega manifesti all'insegna della violenza sulle donne e tanto glamour, in cui due poliziotti, stile veri maci americani, hanno atteggiamenti chiaramente violenti e predatori verso due belle malcapitate, ammanettate, sofferenti, prostrate, insomma. Davvero geniale questa trovata pubblicitaria, anche chi l'ha commissionata. Sì, hanno proprio il genio di chi dispone di materia cerebrale paragonabile a mezza arachide nana e lo spessore umano di una betoniera. Questa è un'interferenza, Alessandro Zaccuri, sai, da Marte è possibile fare magari delle riflessioni un pochino più in libertà. Ma a questo proposito, non so se tu l'hai visti questi manifesti. Io ho visto anche le foto di un calendario invece molto glamour, di fotografi, sì? Molto, molto quotati, dove c'è un rito boshimano con una donna strapazzata da un branco di uomini. Ma sì, ci mancano queste cose, no? Cerchiamo di incrementare la civiltà effettivamente del nostro paese e non solo. Come dicevo, insomma, questa materia cerebrale da arachide nana, mezza arachide nana. Ma per chi non li avessi visti, spero non li abbiate visti, ma chi fosse capitato, insomma, questa bruttura, questa cosa spregevole, sono dei manifesti giganti in giro per l'Italia, appunto di questa azienda Relish, che pubblicizzano in questo modo l'abbigliamento femminile. C'è un'ambientazione, una strada deserta, tipo Arizona, no? Con una macchina di poliziotti che evidentemente ha fermato queste due ragazze, loro molto maci, molto dure, aria molto violenta, le ragazze ammanettate con le mani dietro la schiena, una piegata sul cofano col poliziotto dietro che mette la mano sotto la gonna e un'altra tenuta indietro coi capelli tirati, e anche lei con questo. È una cosa straordinaria, no? Devo dire, Alessandro. Beh sì, il problema della rappresentazione del corpo femminile, del rapporto tra i sessi, è un grande problema. Grande problema culturale, ed è inutile pensare di, naturalmente vanno prese misure, benissimo questo decreto che è appena passato, soprattutto per la questione del processo per direttissima, no? Perché prima, finora sono sempre passati mesi, anni prima che lo stupratore poi fosse messo sotto processo, ci fosse il processo eccetera eccetera, alla fine insomma prescrizione, scadenza dei termini, cose varie, tant'è che solo l'1% poi, ho letto dalle ultime statistiche Istat, finisce in galera e poi per pene. Vediamo insomma se questo decreto. Però io volevo coinvolgere Paolo Martinello, grazie di essere qui. Prego, grazie a voi. Grazie. Di presidente di Altro Consumo, perché mi chiedevo, si può fare qualcosa per boicottare, visto che a Padova il sindaco ha chiesto di levarli questi manifesti, a Milano pare non sia stato possibile, non si capisce come mai, hanno levato, mi viene in mente, manifesti di una grande azienda multinazionale dove c'erano, si pubblicizzavano dei mobili, dell'arredamento, con due uomini seduti su un divano, molto complici tra loro, probabilmente una coppia, insomma, con uno che aveva la mano sulla coscia dell'altro, ma carinamente, come si fa affettuosamente, certamente non era uno che faceva violenza all'altro. Quelli sono spariti immediatamente. In questo caso cosa si può fare, Martinello? Beh, direi che non spetta, credo che siano affissi soprattutto, come dicevate, in grandi cartelloni, quindi enormi. Sono delle concessionarie che hanno questo servizio, non credo che un'autorità comunale possa decidere, ma è anche giusto che sia così, però esistono degli strumenti, esistono degli organismi preposti al controllo della pubblicità, uno è l'autorità garante della concorrenza del mercato e l'altro è il giurì di autodisciplina pubblicitaria. In un caso del genere io penso che soprattutto quest'ultimo abbia gli strumenti per poter intervenire. Il codice di autodisciplina pubblicitaria, che tra l'altro esiste da 60 anni, dagli anni 50, quindi una lunga tradizione, in Italia, è una cosa molto seria, è rigorosamente applicato da parte degli aderenti, ma in questo caso sicuramente qualcuno della filiera, intendo dall'agenzia di pubblicità a chi ha stampato i manifesti, a chi li affissi, aderirà al codice, perché l'adesione è molto ampia e basta che uno dei soggetti coinvolti aderisca per poterla bloccare. Ecco, il giuria ha gli strumenti per intervenire, perché il codice di autodisciplina prevede proprio il divieto di pubblicità, è un'istigazione alla violenza, è chiarissima, esattamente, che rappresenti scene violente o che in qualche modo incite alla violenza o che addirittura più in generale discrediti la pubblicità. E io credo che questo sia un caso emblematico, al di là dei giudizi ovviamente morali o etici che si possono fare, sui quali forse si meriterebbe una riflessione, perché queste pubblicità non sono mai il frutto della pensata di un creativo. Se si fanno campagne pubblicitarie di queste dimensioni è perché qualcuno pensa e ha anche le prove che questo tipo di immagine possa funzionare dal punto di vista pubblicitario. Ed è davvero disgustoso, che è ancora più drammatico, se vogliamo, no? Alessandro Zaccuri voleva intervenire. Sì, no, si pensa che possa funzionare oppure che provochi polemiche bastanti, per cui anche una volta tolto rimanga, perché ricordiamoci che non siamo più in una situazione in cui un'immagine ha bisogno di essere affissa per strada per essere conosciuta. Basterebbe che questi, quando anche venissero tolti in tutta Italia, basterebbe che sopravvivessero come sopravviverebbero all'interno della rete, per esempio, avrebbero già ottenuto perfettamente il loro risultato. Quindi è una strategia. In realtà la pubblicità, secondo me, va al di là della fissione oggi, va al di là dello spot, va al di là del semplice claim, ma entra in un sistema di comunicazione molto più sofisticato. Grandi aziende, dalla Microsoft in giù, hanno fatto delle finte pubblicità, fintamente censurate, che sulla rete hanno portato una quantità di accessi, moltiplicato gli accessi, esponenziali. Io direi, Paolo Martinello, prima di salutarci, intanto inviterei le associazioni femminili, credo in parte lo stiano già facendo, di diritti delle donne, a chiedere i danni per questa cosa, ma poi anche possibilmente associazioni dei consumatori, associazioni di diritti civili, fatte anche ovviamente da uomini e donne, non per forza credo che sia anzi un problema soltanto femminile, un problema di civiltà. Ma voi, Paolo Martinello, come altro consumo potete quindi appellarvi al gran giurì o da dove deve partire? Guardi, no, lo possiamo fare noi, come lo può fare qualunque cittadino, segnalando al comitato di controllo del giurì di autodisciplina pubblicitaria. È sufficiente una lettera, è sufficiente una fotografia, a parte che penso che l'abbiano vista tutti, ma è sufficiente mandare un minimo di documentazione al comitato di controllo del giurì di autodisciplina per stimolarlo ad avviare un'azione. È come fare una denuncia a un pubblico ministero. Infatti, però poi Martinello, sta a lui portare avanti la cosa. Io conto anche su di voi, che avete gli strumenti, l'esperienza. Volentieri, abbiamo raccolto la sollecitazione, no? E senz'altro faremo qualcosa. Magari ci risentiamo prossimamente, così ci aggiorniamo su questa cosa. Va bene? Grazie mille, grazie Paolo Martinello. Grazie, buon lavoro e buon fine settimana. C'era un ascoltatore da Pisa, se non sbaglio, e chiedo scusa, volevo prima appunto soffermarmi su questo argomento, se volete intervenire su questo o mille altre cose, ho detto che parleremo anche di Sanremo e su tanti fatti che in parte prima vi sintetizzavo, ma ce ne sono talmente tanti, insomma potete con libertà sceglierne uno voi. Roberta Marta Giordano, sempre qui con voi in questa ora del sabato a sentire un po' quali sono le vostre opinioni sui fatti della settimana. C'è accanto a me Alessandro Zaccuri, giornalista dell'Avvenire, di Sat, conduttore di Sat 2000, ha scritto questo libro Infinita Notte, appena pubblicato da Mondadori, con lo sfondo di Sanremo. E c'è Stefano da Pisa, il numero verde è al quale ha chiamato e potete chiamare in libertà, è 800 24 00 24. Stefano, scusami se ti ho lasciato un po'. Scusa, prego. Buongiorno, buongiorno. Stavo ascoltando e volevo riflettere insieme con voi riguardo a ieri sera, alla puntata di Sanremo, dove Bonolis ha invitato quel magnate, il proprietario, credo che sia di Playboy. Hugh Hefner, sì, il fondatore, il proprietario di Playboy. Ecco, io ora non voglio fare il bacchettone, ho 38 anni, no? Però mi sembra abbastanza, cioè mi sono rimasto stupito del fatto che si sia inventato un personaggio di questo tipo con al seguito le tre fidanzate o pseudo fidanzate. Cioè, mi sembra che sia un'occasione mancata quella di invece invitare delle persone che, anziché fare soldi sul corpo delle donne, quindi mi sembra innanzitutto offensivo nei confronti delle donne, fanno dei lavori molto più, mi sembra, ora non voglio dare giudizi di merito, però che fanno i soldi in una maniera un pochino più degna, più dignitosa, piuttosto che arrivare a 86 anni e aver investito tutta la vita su un lavoro che ottiene reddito dal corpo delle donne. Ecco, questo mi sembra una cosa abbastanza sconcertante. Arrivare nel 2009 dove le donne fanno tanta fatica a portare avanti la famiglia, un lavoro dignitoso, e avere in prima serata la presentazione di un caso dove un uomo di 86 anni arriva così a essere messo come sul piedistallo per quello che ha fatto, e non mi sembra così dignitoso nei confronti né delle donne ma soprattutto anche degli uomini. Ti ringrazio anche di questa specificazione ultima, Stefano da Pisa. Non ha parlato soltanto di donne ma anche di uomini, perché è sempre una questione che riguarda entrambi, sennò che civiltà, due sessi siamo, allora si parla sempre. Stefano, Alessandro Zaccuri, volevi intervenire su? Sì, questa di Hefner è stata dall'inizio la cosa più controversa, l'invito più controverso, è nello stile di Bonolis, fare sempre un invito, cercare di stupire un po', peggio era l'invito a Mike Tyson, che era stato condannato per violenza sessuale. Certo. Quindi certo, peggio era dell'altra quello edizione, del 2005, no? 2005 sì. Ricordo, devo dire che complessivamente la cosa di ieri sera è stata abbastanza malinconica, cioè infatti anche a me ha fatto compassione. Io per quel pochissimo che ho potuto vedere Sanremo, ma non per snobismo, per questioni di orari di lavoro incompatibile. Io invece per lavoro l'ho visto, l'ho seguito bene, però volevo segnalare una cosa, sì. Perché il festival, specie nelle mani di Paolo Bonolis, è sempre fatto così, a montagne russe, no? a cose che scendono, di grande cose bellezza che e cose che invece... Un'ora dopo Bonolis ha dato grande spazio a una onlus che si occupa di bambini con gravissime disabilità, sì. E l'ha fatto molto bene. È nella sua convinzione che si debbano mescolare le cose, una convinzione che io non trovo sempre condivisibile. Questa cosa di Hefner senz'altro cade in un momento di cronaca, in cui si poteva tranquillamente evitare. È vecchia l'immagine proprio di uomo e di donna che dà, cioè voglio dire, quell'immagine che Hefner ancora si picca di certificare, ma anche l'idea, no, appunto, qual è stata la rivoluzione di quel tipo di rivista degli anni 50, far capire al maschio che anche la femmina poteva essere in qualche modo predisposta. Adesso bisogna forse convincerci del contrario, che non è un estro di tipo animale ma è un fatto culturale il rapporto. Guarda, mi fai venire in mente questo, e anche lo stesso ascoltatore ha chiamato Stefano. Questa è una ricerca di questa settimana, una ricerca americana, sì, è stata presentata al meeting dell'American Association for Advancement in Science in corso a Chicago in questi giorni. Le ricerche sono sempre americane. Sempre, per lo più, diciamo il 90%, 95%. Sì, sì. Secondo la quale l'eccesso, secondo questa ricerca, l'eccesso di immagini femminili da cui siamo quotidianamente bombardati attraverso pubblicità e media sembra avere, secondo questo studio, un effetto negativo inconscio sul modo in cui gli uomini percepiscono le donne. Certo, non c'era bisogno che ce lo dicesse la ricerca americana. Comunque, qua c'è la prova scientifica, sì. Biologica, gli uomini attivano alcune aree del cervello vedendo queste immagini, spegnendone altre, cioè proprio completamente, e trasformando l'immagine femminile in un vero e proprio oggetto. Queste foto alterano appunto la percezione maschile della donna, come se i maschi pensassero di agire direttamente su quei corpi femminili, come se le donne non fossero completamente esseri umani. ma oggetti. Foto di donne sexy hanno il potere di spegnere, ripete la ricerca, nel cervello maschile i centri neuronali dell'empatia, quindi della capacità di mettersi nei panni dell'altro come altro essere vivente che soffre, che sente, eccetera, ovvero quei circuiti deputati a interagire con gli altri, a comprenderne le emozioni. Quindi non è una buona notizia, mi sembra, però è ampiamente testimoniata dall'esperienza, credo, di quello che vediamo intorno. Adesso vorrei dare la parola a c'è Eugenio da Latina che ci chiama. Eugenio, prego. Buonasera, benvenuto. Buongiorno a te, Eugenio. Senti, io volevo parlare prima della pubblicità violenta della lingerie per donna. Sì. E volevo dire, per me è inutile che si muovano tutte le varie organizzazioni per queste cose, ovvero se voi donne decidete di boicottare queste persone non comprando l'oggetto che loro pubblicizzano, automaticamente queste pubblicità verrebbero automaticamente cancellate. Sul caso di Reli ce lo chiederei proprio esplicitamente, ma, insomma, è talmente violenta l'immagine, ecco, non è solo l'immagine sexy, è proprio violenta. Di muovere queste tutte le varie organizzazioni, voi donne dovreste decidere di cancellare queste persone e non comprare questa roba, e sicuramente poi la pubblicità verrebbe immediatamente cambiata. Sono d'accordo con te, Eugenio, sono d'accordo. Posso chiederti cosa stai facendo in questo momento di sabato? Sono incuriosita. Guarda, io sto facendo una cosa molto triste, perché sto andando a trovare il mio suocero che sta morendo. Ho capito. Allora, per forza, stavo sentendo la vostra trasmissione, ho sentito questa cosa e allora ho chiamato. E allora ti sono ancora più grata che tu in un momento così difficile... Non Eugenio... mi sento più. Mi senti, Eugenio? Sì. Ecco, ti dicevo, ti sono ancora più grata che in un momento così difficile tu abbia avuto voglia di mostrare senso civico qui nella mia trasmissione a Radio 24. Non ci sono più le mezze stagioni. Eugenio, ti ringrazio ancora, allora ti saluto. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, ciao Eugenio. Federico da Roma. Federico. Salve, io ho sentito prima gli interventi e gli argomenti che si discutevano e mi è venuto in mente rispetto al Festival di Sanremo. Dire, ma cioè, mi sembra scandaloso che si spendano così tanti soldi per il Festival di Sanremo, non si potrebbe creare un modo per cui il Festival di Sanremo si autofinanziasse con la pubblicità solamente, non col canone che noi tutti italiani paghiamo? Grazie Federico, tu cosa ne pensi, Alessandro? Di fatto è il problema di tutta la RAI, cioè è un finanziamento misto, cioè non è che tutti i soldi vengono dalla RAI, ma non tutti i soldi della RAI vengono dal canone. La risposta dei vertici RAI alla polemica, peraltro singolare per come è uscita, sul compenso di Bonolis, che è un compenso assolutamente in linea con quello degli ultimi anni, un milione di euro, di quello degli ultimi anni, eccetera, è in questo momento, è già all'inizio prima del festival. Poi successivamente è stato detto, sì è vero, noi abbiamo ingaggiato questo conduttore perché la sua presenza ci garantiva un introito pubblicitario di un certo tipo, e l'introito pubblicitario obiettivamente c'è stato, mi pare che siano, ora non ricordo se 12 o 18 milioni di euro, quindi da quel punto di vista la RAI sì. Il problema vero è ovviamente quello del sistema misto, che è un po' una caratteristica soltanto italiana, che ha obbligato nel corso degli anni, anche dal punto di vista di programmi proposti, di linguaggi adoperati, la RAI ad allinearsi alla TV commerciale, e questo è un problema che andrà risolto. Però io mi permetto anche di dire una cosa, forse non è Sanremo il punto da cui partire in tutto questo. Dice. È chiaro, Sanremo è rimasto come last man standing, no? È rimasto l'ultimo grande evento mediatico, una volta era il più importante evento mediatico in un panorama dove banalmente un programma di successo superava abitualmente la soglia del 30%, 35-36%, e poi a un certo punto arrivava a Sanremo che sforava il tetto del 50% dell'audience. Oggi non è più così. Oggi Sanremo in questa stagione televisiva è l'unico programma che ha superato il 40%. E a questo punto è un'eccezione, quindi questa eccezione qua dobbiamo tenercela. Poi chiaro, è sgradevole, capita in un momento anche di crisi, qui dove di crisi, dove l'idea del milione fa paura, colpisce, eccetera, però è anche vero che non dimentichiamo, questo è un tipo di investimento industriale da un certo punto di vista, il compenso del conduttore, e in questo caso perché specifico sai che poi ci può essere un grande ritorno, in questo caso specifico ripagato. Io direi riassumiamo un po' anche altri argomenti. Adesso tra pochi istanti dobbiamo lasciarci, ma ritorniamo dopo pochissimo. Il numero verde è 800 24 00 24. Stiamo parlando di Sanremo, abbiamo parlato dell'immagine che istiga la violenza di un certo tipo di pubblicità, e poi sappiamo appunto che è passato il decreto legge. Cosa ne pensate, per esempio, anche delle ronde, fra i tanti argomenti di questa settimana, no? Che questo provvedimento che è passato appunto col decreto legge del Consiglio dei Ministri. C'è poi il PD in questo momento in grande crisi, in grande momento di passaggio. Cosa ne verrà fuori, insomma? Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi, Alessandro Zaccuri accanto a me, giornalista e scrittore, che ha scritto, ha pubblicato di recente Infinita Notte, che ha da Mondadori, che ha come sfondo Sanremo, di cui abbiamo parlato abbastanza diffusamente finora, ma poi possiamo tranquillamente cambiare argomento. Abbiamo visto che gli ascoltatori hanno toccato anche altri temi, ce ne sono molti altri. Mi dice il nostro Gigi Borghi in assistenza in regia, che raccoglie le vostre telefonate e che ringrazio. 800 24 00 24. Alessandro, una sintesi di questo tuo romanzo che è ispirato in qualche modo a Sanremo? È una storia corale, non solo perché si canta, è il tentativo di raccontare quello che sta succedendo in realtà anche questa settimana a Sanremo, una settimana in cui questa cittadina ligure si trasforma, in cui tutto sembra decisivo e fatidico dentro il teatro Ariston, ma anche intorno al teatro Ariston, per esempio gran parte nel racconto, come nella realtà, alla sala stampa del festival, gran parte del racconto si svolge per le strade dove ci sono queste ragazzine, oppure anche signori di mezza età o signori di mezza età appostati con la macchinetta digitale per fare la foto ai cantanti, e poi le hall degli alberghi, e poi tante storie diverse con una piccola idea centrale, che è quella che anche in questo, che è il posto più finto, diciamo, e nella settimana più finta che si possa immaginare, a ciascuno di noi come persona può capitare qualcosa di vero. Di nuovo spazio agli ascoltatori, al numero verde c'è Vincenzo da Milano. Buongiorno a te, Vincenzo. Scusate l'emozione, è la prima volta che intervengo. Mi sento onorata, allora, se è la prima volta. Tutta per me, va bene. La ringrazio. Ascolti, io volevo intervenire per quanto riguarda la vicenda della condanna Mills. Sì, l'avvocato Mills. In questa settimana è stato condannato a 4 anni e 6 mesi, però secondo me è stato poco... c'è stato poco risalto da parte della stampa, perché c'era un avvenimento dove comunque era c'era in mezzo il capo del presidente del consiglio, e secondo me c'è stato poco clamore su questa vicenda qua. E niente, volevo sapere anche come mai proprio questa settimana che era successa questa condanna non è andato in onda Anno Zero, dove probabilmente se ne sarebbe parlato un po' di più. No, ma su questo non credo che abbia a che fare con la sentenza Mills, non credo. Non saprei spiegarti perché, adesso non ricordo perché non ho seguito tutta la programmazione della settimana della televisione, però non so se poteva essere controprogrammazione con Sanremo, poi come decidono internamente alla RAI, però non so dirti, Vincenzo. Quindi secondo te è stato dato poca risonanza a un fatto che ritieni piuttosto importante, visto le altre implicazioni? No, molto di più. Grazie. Vincenzo, posso chiederti cosa fai in questo momento? Io sto tornando a casa dal lavoro. Ah, lavori anche tu oggi? Sì, oggi è stata una giornata un po' particolare in cantiere, c'è stata un'emergenza e siamo dovuti scappare. Che cosa fai in cantiere? Faccio il capo cantiere. Tutto bene? Sì, tutto bene, vi ringrazio. Lavorate in sicurezza, sì? Sì, sempre. Grazie, Vincenzo. Vi ringrazio ancora voi. Grazie, ciao. Buona giornata. Paolo da Roma. Paola, perdonami, ti ho cambiato sesso così in corsa. No. Prego. Allora, intanto, brava Roberta, prima di tutto, sono stata una appassionata lettrice del romanzo di Alessandro Zaccuri, che è un romanzo molto bello. Beh, grazie. Che ha dei risvolti speciali che ti danno da pensare. Ecco, a proposito, non ci sono più le mezze stagioni, un'altra frase, ti danno da pensare. Brevemente, violenza sulle donne, la bambina, perché non oso pensare. A 14 anni, certo. La ragazza che insomma, ha aiutato la polizia, ha dato una mano per trovare queste due belve si sono accanite contro di lei e contro il suo fidanzato. Speriamo che ci sia giustizia giusta e sicura, e che non ci siano più casi come quello del protagonista con la P minuscola di questa tragedia, che è fermato per 9 volte, espulso dal nostro paese, ha potuto liberamente circolare. Questo non ha niente a che spartire con le ronde, non ha niente a che spartire con, su questo hai ragione, con la facile, la facile giustizia della quale si parla in queste ore. Che ci sia giustizia sicura negli istanti in cui si è certi che quelli siano i colpevoli, è l'unica cosa che si domanda. Paola, credo sia estremamente condivisibile quello che dici, poi ognuno sulle ronde può dire naturalmente quello che crede, quello che pensa, però è vero che la giustizia da noi, se ci sono le leggi, devono funzionare, devono assolutamente funzionare, e non è possibile che qualcuno che si macchia di reati orribili, ma anche di cose minori, però in modo reiterato, la faccia sempre franca, insomma, no? Poi prima o poi ci scappa o il morto o la violenza. Sono cose inaccettabili queste, Paola, siamo d'accordo. E una volta che si va in carcere per un reato così orribile, la pena deve essere quella meritata e in modo definitivo, ecco, tutte queste. Mi sembra che col decreto legge che è stato appena approvato non ci dovrebbero essere più sconti, agevolazioni penitenziarie, cose di questo, che mi sembra il minimo in un fatto del genere. Paola, tutto questo mi piace sempre che si arrivi dopo, ecco, l'unica cosa, comunque l'importante è esserci arrivati, ecco. Speriamo di cominciare ad arrivarci prima anche. Paola, io posso chiedere anche a te dove stai andando, se non mi faccio troppo fatica? Roberta, sto facendo una cosa bellissima, sto arrivando a sorpresa a Sorrento. Dove vive un mio torni amico. Torni a Sorrento, che per me è un fratello, che è un po' giù in questo periodo. Vado, gli do un bacio e vengo via di nuovo perché devo rientrare a Roma. Quindi a te basta chiamarti, arrivi, dai un bacio per consolare e via. Pronto soccorso affettivo. Ne vale la pena, lui se lo merita. È una cosa bellissima, grazie Paola. Dai un bacio anche da parte nostra, allora. Uno di più. Grazie infinite. Grazie, ciao Paola. Ciao Roberta, grazie. Alessandro, volevi intervenire su qualcosa? No, beh, certo, quello è il più odioso dei crimini odiosi. Credo che una grossa riflessione vada fatta. Noi giustamente ci soffermiamo sempre sull'aspetto giudiziario, eccetera, e c'è un problema anche però più generale di sicurezza del vivere, di sicurezza delle città, di sicurezza delle periferie, che è figlio di una lunga storia, non è figlio della storia di questi anni. Naturalmente. Alla base poi delle violenze sessuali c'è un grande e terribile problema culturale. Perché nei paesi del nord, Norvegia, Finlandia, Svezia, succede infinitamente meno? Perché donne e uomini hanno dei ruoli, una dignità paritaria. C'è anche però una maggior percezione di giustizia nelle città. Certamente. Non ci sono, se tu vai a vedere, come dire, proprio geograficamente dove si svolgono le violenze, molte volte sono nelle periferie, molte volte in quegli angoli di periferia che sono stati abbandonati, che sono insicuri, che sono stati ormai pensati per essere insicuri. Credo che sia la cosa. Io ho in mente l'omicidio, in quel caso, della povera Reggiani a Roma, che era una situazione che non di so degrado, come di degrado tale che. E come altre abbiano scampato passando in quella zona che faceva paura solo a vederla, no? Dove quello, perché vuol dire che ormai chi abitava lì c'era un'abitudine a quella situazione, una situazione che si considerava in qualche modo impossibile da rimediare, e ci si arrangiava e si sperava che andasse bene. Credo che una cultura della città debba tenere presente anche questo. Enzo da Bologna, sempre al numero verde 800 24 0024, sentiamo la tua voce, sentiamo qual è l'argomento sul quale vuoi intervenire. Enzo, ti ringrazio per avermi concesso l'intervento. Io avevo chiamato per la faccenda delle ronde. Sì. E nel contesto, io faccio il poliziotto, sono di Bologna, lavoro in polizia. E niente, volevo. Perdonami, Enzo, posso chiederti di abbassare completamente la radio perché si sente l'eco? Ecco, se abbassi o la spingi. Chiedo scusa. Niente, volevo aggiungere un piccolo passaggio a quello che era stato detto poc'anzi, anche perché è doveroso. Cioè, in sostanza, non è che noi abbiamo una percezione di mancanza della giustizia, anche dovuta al fatto che comunque la magistratura dà sempre il minimo della pena concesso. Cioè, il codice penale prevede comunque un minimo massimo, viene sempre concesso un minimo. Ma al di là di questo. Forse aspetto, soprattutto su reati come questi, che ancora ma sempre per un problema tutto, culturale è non è mai considerata culturale. Una cosa così. Sì. Cioè, i magistrati danno sempre tutto ciò che è di concessione di beneficio per il reo, quindi automaticamente tra un minimo e un massimo concedono sempre il minimo, e poi con tutti quelli che sono i benefici di legge. con tutti con, nel tempo anche gli sconti che vengono fatti. A questo punto è ovvio che per la gente c'è una mancanza di poca giustizia, perché chi commette il reato paga. Oggi come oggi c'è questo concetto che il reato paga. E comunque, tornando al discorso di cultura, non è sbagliato, Dio, il mio pensiero si può spaccare in due tronconi, c'è chi garantista, chi meno, però a livello civile e sociale non è così sbagliato che le persone, non premetto, io sento parlare che le ronde devono essere fatte da ex poliziotti, ex carabinieri, anche armati, perché loro hanno importo, cioè questo è assurdo il quindi fatto tu sei contrario? Sono assolutamente contrario, uno che ha fatto il suo mestiere è in pensione, vada in pensione, adesso non è cattiveria, però il ragionamento è che il cittadino ha già la legge che lo prevede di dover di poter intervenire laddove c'è la consumazione di qualche reato. Qui si tratta semplicemente di mettere i cittadini che hanno la volontà, segnalati come a Bologna, cioè abbiamo i pattuglianti cittadini, loro segnalano che vanno fuori con due macchine, danno le loro targhe e dicono noi siamo in queste zone qui e facciamo i nostri giri. Ah, ci sono questi pattuglianti cittadini? Da sempre a Bologna i pattuglianti cittadini ci sono sempre state, gente col porto d'armi, perché alcuni sono anche un po' esaltati. Alcuni sono anche un po' esaltati, per carità, a volte può succedere. E questo è un po' il rischio forse. Ma... Esatto, è questo il problema. Il problema è facciamo dei gruppi di volontari, certo, che conoscono il territorio, possono viaggiare, camminare, salutare le persone e essere consapevoli del fatto che il loro ruolo è quello di segnalare e allo stesso tempo che gli organi preposti siano disponibili. Perché parliamoci anche da un altro aspetto. Questa gente si trova nella strada, si trova magari a dover affrontare una situazione di pericolo e non c'è la pattuglia disponibile, succede, cosa fanno? Che si sente in dovere di proteggere qualcuno, se stessi, perché può succedere. Allora dobbiamo interagire ed è un senso, secondo me, di civiltà che la gente possa conoscere quali sono i propri doveri e i propri limiti. Quindi tu fammi capire, perdonami Enzo, sei poliziotto, sei contrario alle ronde così come sono state concepite in questo, mi pare di capire, decreto legge, però dici che dei cittadini che collaborano in questo modo, ma penso forse potrebbe essere la stessa cosa prevista per le ronde, no? Ma sì, il problema è questo, è il problema di dover mettere sul territorio altra gente armata, perché è personale che ha già una certa esperienza di vita vissuta. Ma allora è questo il discorso, cioè noi torniamo sempre sul fatto di dire mettiamo comunque dei poliziotti che non sarebbero neanche poliziotti, sono dei cittadini, ma con che ruolo? Allora si crea confusione, dici, c'è il rischio di creare confusione in questo modo. Esatto, è più vantaggioso nel concetto di cultura rieducare la nostra società al fatto che non c'è la magistratura, non c'è solo la polizia, ma c'è anche il cittadino. Il cittadino ha il suo dovere, ha il suo potere, perché può segnalare, può intervenire anche di fronte alla consumazione di un reato vero, certo, e proprio. Bravo, io direi anche di liberarsi dell'indifferenza che ormai spesso, sempre più spesso, è il grande passo. Ecco, chiamare al telefono, il telefono ormai ce l'abbiamo tutti. No, all'estero, prima avete accennato in Svezia e in Norvegia, hanno un senso di civiltà perché tutti collaborano con quello che è il proprio dovere. Là non hanno il ragionamento dell'amministrazione o il sistema, è una cosa così distaccata. Grazie. Ma Enzo, sei stato chiarissimo, mi ha fatto piacere molto la tua testimonianza. Lavori oggi? Sì. Vado a fare la sera. Buon lavoro allora per stasera. Grazie Enzo, ciao. Cinzia da Trento, sempre il numero verde 800 24 00 24. Cinzia. Sì, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. E complimenti per Radio 24 perché mi fate un sacco di compagnia. Io ho un negozio e vi ascolto dalla mattina alle 7. Nel negozio. Fino alle 10 di sera. Inflazioni, però ci tiene una compagnia straordinaria tu, Cinzia. Sì, sì. I tuoi clienti che dicono, va bene? Oh, sono contenti, anche perché poi ogni argomento che si sente su Radio 24 sono argomenti di discussione. Se ne discute in libertà, si riflette, ognuno poi si fa la propria idea. La tua qual è, Cinzia, su quale argomento? Mi rifacevo al suo ospite che c'è lì. Puoi darmi anche del tu tranquillamente, io lo dico ma non è per proprio per piacere. Al tuo ospite, un po' più. Perché lui aveva detto che non è un problema di giustizia, cioè è proprio un problema di cultura. Alessandro Zaccuni. Perché io mi ricordo che quando ero ragazzina andavo in giro in autostop con 4-5 amiche. E non abbiamo mai trovato nessuno, anche perché i maschi una volta eri autorizzata, se magari non volevi fare qualcosa, dargli una sberla in faccia e dirgli, ehi, metti le mani a posto. E adesso invece non so perché, ma o sarà che le ragazze sono cambiate perché sono molto più sveglie, molto più... No, ma non, dire, non, poi, non diciamo che colpa... No, ma aspetta, non ci volevo concludere un attimo il discorso. Prego. No? Un maschio crede che la ragazza ci stia in ogni caso, anche se dice di no, ci sta. Ecco, secondo me è cambiato l'idea che il maschio ha della donna. Perché veramente, cioè, casi di stupri al mio tempo, io ho 50 anni, se ne sentivano raramente, ma cioè, erano proprio rari. Adesso invece ce n'è uno ogni giorno, anche qua a Trento, che è una città tranquilla. Ci sono ragazzine di 14 anni violentate dai compagni di classe di 16. Ah sì sì, iniziano i minorenni, infatti si sta dibattendo anche se è il caso di aprire il carcere anche ai baby stupratori. Ma sarebbe visto anche che sta diventando... Probabilmente sarà un dibattito anche questo da approfondire. Cinzia, ti ringrazio moltissimo. Grazie. Allora, dal tuo negozio possiamo continuare a riecheggiare prossimamente. Certo. Sempre con piacere. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Ciao Cinzia. Alessandro. Sì, però bisogna mettersi d'accordo qui, nel senso che molte volte quando capita di esprimere un giudizio, voglio dire, su questa cosa di Playboy al festival sono più o meno tutti d'accordo. Altre volte, quando però si cerca di dire, beh, però attenzione a presentare certi modelli di comportamento, attenzione a sdrammatizzare, per esempio, la relazione sessuale in maniera così disinibita, così disincantata, eccetera, si rischia obiettivamente per passare di bacchettoni per persone fuori dal tempo, eccetera. Ma sai, non è neanche questi la sessualità casi, disinvolta, è questi proprio casi, però, l'idea predatoria di asservire l'altro. Ma non è, attenzione, perché in questi casi, per esempio, che hanno per protagonisti i minori, 16-14 anni, i ragazzi, i maschietti, non capiscono più dov'è il problema. Perché quando si è abituati a esercitare tra compagni e compagne una sessualità sempre comunque così senza impegno, non si riesce a capire cosa c'è di grave a forzare un po' di più. Posso Alessandro, se mi permetti, io ritengo che in realtà il problema non sia tanto questo, ma sia quello di, forse dalle scuole, dalle famiglie, davvero cercare di trasmettere il valore del rispetto dell'altro e soprattutto dell'altra, il valore della sessualità rispettosa, desiderata da entrambi. Ma io sono perfettamente perché, d'accordo. Perché ci sono persone che vivono la sessualità molto liberamente, ma vivendola come un piacere reciproco e fatta nei momenti opportuni, se tutte e due le persone lo vogliono. Non credo che sia il fatto di viverla liberamente che allora non stavo dicendo una mancanza questo. Di sensibilità. Non stavo dicendo questo. No, ma sento sempre più spesso i ragazzini, per esempio, entrambe nelle scuole, i maschi, che dicono delle cose trivialissime di cosa farebbero quella, quell'altra, come se fossero delle cose assolutamente normali, come se si desensibilizzassero. Ma guarda, è come la rivoluzione francese. Prima c'è stata la rivoluzione e poi c'è stato il terrore. Forse bisogna avere il coraggio di ammettere che anche nella rivoluzione sessuale sta capitando qualcosa di questo tipo. Sì, anche se credo che nei paesi del nord, come dicevamo prima, si vivano la sessualità con estrema libertà, ma probabilmente con molto molto più rispetto e con pari dignità tra donne e uomini. Non è che le donne, come si diceva in quella ricerca, sono l'oggetto, il pezzo di carne da strapazzare e gli uomini, capisci? È proprio sì, una questione ma, di... Guarda, sono d'accordo, però ripeto, bisogna mettersi d'accordo. Quando si dice che su questi temi occorre un tipo di educazione che vada al di là del mero aspetto biologico, certo, che ormai è conosciuto da tutti, bisogna prenderla sul serio questa cosa. Bisogna prenderla sul serio, bisogna trovare una base culturale comune, che sono d'accordo anch'io, deve essere quella del rispetto, e deve essere anche quella, secondo me, che in ogni momento in cui si entra in questo tipo di relazione con l'altro, comunque si varca un confine. In qualche modo si stringe un vincolo, eccetera. È questo che manca in questo momento. È come se avessimo così. Per i ragazzi rischia di essere davvero come i famosi soft drink, che sono alcolici ma uno non se ne accorge. La sessualità rischia di diventare qualcosa del genere. Eccoci qua di nuovo insieme. Insomma, crea ovviamente passione, perché è una passione gli argomenti così importanti per la nostra vita, per il nostro progresso civile, umano, al di là di andare su Marte. 800 24 00 24. Io adesso, a proposito di amore, di rapporti, di quanto al di là del viverli in modo disinvolto serva la convinzione, serve il capire che rapporto sessuale c'è se c'è rispetto per l'altro e se tutte e due le persone lo vogliono. A me per esempio piace moltissimo Roberto Benigni quando parla d'amore. In questo caso lo ha fatto in un modo particolare, originale, intenso al Festival di Sanremo. È una delle pochissime cose che sono riuscita a seguire proprio per, dicevo, orari di lavoro. E sapete della polemica che c'è stata, dicevo all'inizio, con la canzone di Povia, che era piuttosto discriminante, insomma, considerata tale nei confronti delle persone omosessuali, perché rappresentava un uomo che era come guarito, ecco, come se ci fosse da guarire da una scelta sessuale piuttosto che da un'altra. E allora io direi, prima di sentire ancora gli altri ascoltatori, chiedo a Giacomo Spunta, in regia, che così approfitto per salutarlo, se mi manda appunto proprio un piccolo estratto dell'intervento di Benigni su questo argomento. Allora, diciamo, siccome è una storia quella degli omosessuali che è incredibile perché va avanti da millenni, gli omosessuali, lo dico con allegria, non sono fuori dal piano di Dio, è una cosa, non è che è un peccato, di peccati c'è solo la stupidità. Gli omosessuali ci hanno dato dei doni enormi, e io gli sono grato, così come gli eterosessuali, la stessa. Aspetta, no, non era un discorso, dico, e allora voglio dire, per rendere l'idea, dico, di quello che, di cui stiamo parlando, l'assurdità, ma davvero la ridicolaggine a volte. Voi immaginate, gli omosessuali sono stati seviziati, torturati, morti nei campi di concentramento. Sapete perché? Perché amavano un'altra persona. Non c'è delitto più infame. Cioè, voi bisogna immaginarsi gli eterosessuali, la stessa cosa. Allora, mettiamo il caso che un eterosessuale, io, un uomo o una donna, uno di voi, si innamora a 18 anni, 16, 15, all'età che vuole, focosamente, quella cosa che non si regge, di una persona, l'uomo di una donna, la donna di un uomo, se si ribaltassero le cose. A un certo punto, quando uno di voi si innamora, lo prendono, lo torturano e lo uccidono perché si è innamorato. Quello è il motivo, non ce n'è un altro. Gli omosessuali sono stati torturati perché amavano un'altra persona. E quando c'è l'amore tutto diventa grande, finisce la mediocrità. Siamo d'accordo o no che quando c'è l'amore, Alessandro Zaccuri, finisce la mediocrità? Ah beh, quello sono d'accordissimo, certo. È stato un po' tutto surreale, io devo dire la verità. Grande rispetto per Benigni, però poi anche l'appello Oscar Wilde, al quale gli si può appellare per tante cose, eccetera, eccetera. La stranezza doppia, perché come c'è stato questa specie al festival di commento preventivo alla canzone di Povia, c'è stato uno sfottò preventivo alla canzone di Vazzaricchi. Una è stata eliminata, l'altra no, però essendo comunque una gara sono cose un pochino strane. Io dico che avrei gradito moltissimo, per tornare al nostro argomento iniziale, che la metà del cancan che è stato fatto attorno alla canzone di Povia, sulla quale poi magari qualcosa si che può, secondo me è servito anche a farsi molta pubblicità, si può anche dire, altrimenti sarebbe passato come altre sì, canzoni. No, però adesso siamo seri, insomma, è stata scelta da Bonolis questa canzone, perché Bonolis è il direttore artistico, probabilmente sapendo che avrebbe procurato questo tipo di reazione. Poi è stato fatto, ripeto, questa specie di cosa preventiva, dire no, sì, però io metà del cancan che c'è stato sulla canzone di Povia l'avrei voluto sulle conigliette, cioè mi sarebbe piaciuto che questo problema potevamo fare metà e metà. Poi secondo me la parola definitiva su questo caso l'ha scritto un intellettuale non sospetto, perché omosessuale dichiarato, Walter City, sulla Stampa l'altro sì, giorno. Non mi ha convinto tantissimo, però è assolutamente dignitosa anche la sua presa di posizione. Beh, intanto sa di quello che parla, sì. Diciamo, a differenza di molti altri, certo. Lui dice, beh, possono esistere anche gli omosessuali nevrotici, possono esistere anche... Poi come gli eterosessuali nevrotici, nel senso che lui diceva parecchi, sì. come diversi gay possono improvvisamente innamorarsi di una donna, di un uomo, e così anche molti eterosessuali, io ne conosco, hanno fatto una scelta diversa, sia uomini sia donne, magari con figli, con una famiglia, invece di innamorarsi di un uomo. No, diceva una cosa un pochino più precisa, un po' più precisa, sì, ti diceva, è vero che la canzone di Povia, una volta ascoltata, perché ricordiamoci che si è fatto sempre una cosa preventiva, senza ascoltare, una volta ascoltata può raccontare un tipo di storia che oggi non è più considerata così attuale, che però ci può ancora essere. Lui dice, la cultura omosessuale deve decidersi, perché il dire che l'omosessualità non nasce necessariamente dalla nevrosi non esclude il fatto che a livello di storia, di esperienza personale, una persona con una forte nevrosi possa fare la scelta sbagliata. Poi voglio dire, abbiamo visto al cinema, in letteratura, tante storie, da Oscar Wilde in poi, di eterosessuali che poi scopre e non c'è mai stato nessuno scandalo. Mi sembra lasciamo la libertà anche di fare almeno una, voglio per dire, una volta. Le quote possono esserci anche in questo caso. Valeria Della Valle, Valeria, eccoci. Buongiorno. Scusami Valeria, come al solito siamo sempre di corsa, perdona. Valeria Della Valle è docente di linguistica italiana alla Sapienza di Roma e ogni volta mi aiuta un po' a capire quale può essere un concetto portante, una parola emblematica dei fatti di questa settimana. Guarda, questa volta è facile, perché anche prendendo spunto da tutto quello che avete detto, a partire dalla campagna pubblicitaria ignobile di cui parlavi all'inizio, passando per Sanremo, volevo notare una cosa, che quest'anno il tema centrale di molte delle canzoni di Sanremo, la parola chiave è il corpo. Vi faccio degli esempi velocissimi. Zaccuri annuisce, dice che secondo lui. Prego. Alexia e Lavezzi, giuro che ti mangerei a morsi e ti divorerei con molto gusto. Se piace, Bravo tutte parlava due, perché... il mio corpo non può colmare l'immenso vuoto che hai lasciato. Zanicchi, averti dentro un letto, le tue mani e il tuo corpo acceso su di me. Dolce Nera, stai toccando me, la mia bocca è qui. Povia, la gara a chi faceva meglio il sesso, fino ad arrivare a Masini, ragazze stuprate dalle carezze di un branco, gemelli diversi, vergini vendute come carne da macello. Che cosa voglio dire? Che il tema ricorrente questa volta, più che le solite rime cuore-amore, sembrava vertere quindi sulla fisicità e sul corpo. Nello stesso quindi qui non, io faccio solo un'analisi linguistica, da un altro punto di vista, per tutte le parti che ho ascoltato di questo benedetto festival, ecco, tutte le battute di spirito erano anche loro centrate sul corpo. E il corpo qual era? Era il corpo più o meno svestito delle, mi dispiace chiamarle vallette, insomma delle partecipanti al festival, grazie alla loro bellezza, no? Fino al trionfo finale di cui parlava giustamente Zaccuri, quello delle conigliette. Allora dico, da una parte giustamente il corpo in primo piano, ma questo corpo serviva al conduttore o a chi interveniva per tutta una serie di sottintesi, ammiccamenti, allusioni, la gamba scoperta, il seno prosperoso, eccetera eccetera. Allora mi riannodo a quello che dicevamo all'inizio, c'è un confine difficile da tenere, no? Tra poi quando si arriva all'immagine ignobile mostrata, dove anche lì il corpo è al centro, ma nella totale mancanza di rispetto. Però attenzione, anche tutte quelle battute, quanto rispetto contengono? Valeria ci lascia con questo punto interrogativo e con la sua acutezza. Dobbiamo purtroppo lasciarci, ma ci siamo sabato prossimo e sono con voi. Vi ricordo che poi domani sono con Storielle, invece dalle 19 alle 19.30 ci sarà Anna Mazzamauro con me. Ringrazio Gigi Borghi, l'assistenza in regia, Giacomo Spunta alla parte tecnica, grazie a Alessandro Zaccuri di essere stato qui con me. Grazie a voi ascoltatori, scusatemi per le telefonate che non sono riuscita a passare. Roberta Giordano vi aspetta sabato prossimo.